Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa europea. È la seconda dell'anno, però direi veramente di iniziare con qualcosa sulle elezioni europee. Questo è l'anno delle elezioni europee. Sono, direi, più importanti del solito perché mai, credo, come negli ultimi due anni si è parlato tanto di riforma di alcune istituzioni europee, di euroscetticismo, di nuovi ingressi. Ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse, di quelli che verranno. E quindi inizierei con questo lungo articolo pubblicato da El Diario, che è una settimanale di Madrid, che parla appunto delle elezioni europee, di come tutto sommato sicuramente di democrazia si tratta nell'Unione Europea, ma è una democrazia atipica. Vi leggo una parte di questo lungo articolo che poi trovate anche online. Immaginate che domani si svolgano delle elezioni locali. Dovete valutare il bilancio dell'amministrazione del vostro comune ed esaminare le alternative rappresentate dai gruppi di opposizione ed è in funzione di queste analisi che andrete a votare. Adesso immaginate che in piena serata elettorale le autorità facciano un annuncio incredibile. A causa di una serie di errori informatici, amministrativi e di comunicazione, le elezioni di oggi non sono solo locali, ma assumono il valore di elezioni politiche. Abbiamo deciso di riunire i voti raccolti dai candidati di ogni partito in tutti i comuni di una stessa provincia e di designare in questo modo i deputati al Parlamento, come se si trattasse di elezioni politiche. Una vera e propria assurdità. Eppure è all'incirca questo il principio alla base delle elezioni per il Parlamento europeo. Di fatto è in funzione di un'analisi esclusivamente nazionale che gli elettori premiano o puniscono i partiti. Per qualche giorno politici ed esperti analizzano minuziosamente il messaggio che i cittadini hanno voluto dare al governo e all'opposizione, ma ben presto questi parlamentari cominciano il loro andirivieni fra Bruxelles e Strasburgo, formano gruppi politici con i deputati di altri paesi e prendono decisioni su questioni di cui hanno l'assoluta certezza che il loro elettorato non trarrà alcuna conseguenza cinque anni dopo. È un po' paradossale, però, ed è sicuramente forse un meccanismo che andrebbe un po' corretto, ma si parla da tantissimo tempo di una riforma del Parlamento europeo, perché sapete che di fatto è l'unico Parlamento che non legifera, o meglio, legifera, ma non sono quelle le leggi che poi veramente contano nella nostra vita quotidiana. Quelle europee che contano nella nostra vita quotidiana sono in realtà quelle emesse dalla Commissione europea, che è il governo dell'Unione Europea. Ma insomma, vedremo. Intanto riflettiamo su queste cose. Sempre a proposito di elezioni europee 2014, un'analisi di Le Monde. In questo caso forse un pochino più che guarda il bicchiere mezzo pieno. Le Monde è sicuramente, come la stragrande maggioranza direi della stampa di orientata verso sinistra, non è euroscettica, ma anzi teme l'euroscetticismo, e infatti il titolo dell'articolo è "Gli euroscettici non vinceranno", e anche qui ve ne leggo una parte. A forza di scrivere cose orribili, le cose orribili finiscono per accadere. In questi tempi difficili verrebbe la pena di utilizzare per l'Europa la battuta di Michel Simon, autore sotto falso nome di romanzi gialli che teme di essere assassinato nello strano dramma del dottor Molyneux. A forza di predire cose terribili sull'Europa, queste finiscono per accadere. Se l'Europa si vergogna di se stessa, saranno gli estremisti a vincere, avverte il commissario europeo Michel Barnier. La cosa peggiore per l'Europa è il silenzio e la paura. A sei mesi dalle elezioni, ormai sono anche meno di sei, non ci dobbiamo far intimidire da Marine Le Pen, che afferma che il suo sarà il partito più votato. Forse della Francia, ma di certo non dell'Europa, stando ai calcoli del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. E prosegue questo articolo, che anche in questo caso trovate online, gli estremisti di destra dovrebbero arrivare a 90 deputati, inoltre sono divisi. Gli eurofobi britannici dell'UKIP, allegati al partito agrario polacco, 30 seggi, non vogliono stare insieme con gli amici di Marine Le Pen, 40 seggi, che a sua volta non vuole stare con i neonazisti greci di Alba Dorata o dell'ungherese Jobbik, 20 seggi. Insomma, ogni movimento ha i suoi infrequentabili. A sua volta l'estrema sinistra sarà costituita da non iscritti, 15-20 deputati, e dagli amici di Jean-Luc Mélenchon e di Die Linke, tedeschi, 50 deputati. In totale gli anti-europei dovrebbero passare da un centinaio a un massimo di 160. Aumentano quindi, ma aumentano in maniera forse da non rappresentare un vero pericolo. E vi leggo l'ultima parte dell'articolo che cita un europeista convinto come era Valéry Giscard d'Estaing, e l'ex presidente francese diceva di aver fatto un errore quando aveva imposto che dal 1979 gli eurodeputati fossero eletti a suffragio universale. Non aveva tutti i torti. Il Parlamento europeo è un'entità extraterritoriale, scollegata dalle rappresentanze nazionali, e non riuscirà a imporsi con la sua attività. Dobbiamo ricollegarlo al territorio. Ma veniamo a un altro paese, anche un altro quotidiano, in questo caso è la Frankfurt Allgemeine Zeitung, il più, diciamo, autorevole quotidiano tedesco, e ha condotto un sondaggio, la FAZ, ed è una sull'immigrazione. Salta fuori che la maggioranza dei tedeschi, una maggioranza superiore ai 2/3, è favorevole all'arrivo di immigrati professionalmente qualificati, chiede però di espellere quelli che arrivano in Germania soltanto per avvalersi del suo generoso welfare. Sapete, questa è una questione che abbiamo toccato molte volte. In Gran Bretagna c'è lo stesso tipo di problema e Cameron sta cercando di placare l'euroscetticismo che è venuto dal fatto che dal 1 gennaio sono cadute le restrizioni per gli immigrati polacchi, per esempio, e gli euroscettici o magari semplicemente così anche chi è contro l'immigrazione teme appunto che questa ondata di immigrazione abbia come reale motivazione quella di approfittare di un welfare migliore di quello che queste persone hanno nei loro paesi. C'è un altro quotidiano tedesco che sulla stessa questione, quella dell'immigrazione, in questo caso è la Süddeutsche Zeitung, che ha un orientamento politico leggermente diverso da quello della FAZ, che è più conservatrice. La Süddeutsche Zeitung è, per quanto obiettiva e non estremista in alcun modo, è più orientata verso il centro-sinistra. Riferisce che secondo la Commissione europea la Germania non ha il diritto di negare in linea generale le prestazioni sociali agli immigrati arrivati da altri paesi dell'Unione europea, anche se non cercano lavoro. Stando al giornale bavarese, la richiesta di Bruxelles arriva però nel momento meno opportuno, a pochi mesi dalle elezioni europee di maggio, e rischia di rinfocolare il fastidio dei cittadini, che già vedono nell'Unione un mostro burocratico e una macchina per fabbricare debiti. Perciò, avverte la Süddeutsche Zeitung, i populisti possono rallegrarsi, perché quali argomenti migliori appunto di questi? Passiamo a un altro argomento, e questo riguarda l'editoria, un argomento che forse, come avrete capito, mi è molto caro. In Francia è passata questa legge cosiddetta anti-Amazon. Amazon è naturalmente il più grande, una volta era solo la più grande libreria online del mondo, adesso su Amazon si può comprare di tutto, compreso credo cibo, ma sicuramente abbigliamento, oggetti per la cucina, giocattoli, qualsiasi cosa, ma penso soprattutto libri che quasi sempre sono scontati e che quindi mettono in difficoltà le piccole librerie. In Francia si legge molto più che in Italia, quindi l'argomento è ci sono ancora molte più librerie indipendenti che da noi, e quindi c'era stata questa protesta e ora questa legge è stata varata. Il problema però è che è una legge che potrebbe anche l'Unione Europea potrebbe bocciare. In ogni caso, scrive in questo caso Le Figaro, in Francia la lotta contro Amazon mette tutti d'accordo. Dopo l'ok dell'Assemblea Nazionale, anche i senatori francesi hanno votato compatti e in modo bipartisan a favore della legge che difende le tradizionali librerie rispetto alla concorrenza degli operatori online, sul modello di Amazon, che è stata accusata di dumping. Ecco, quindi potrebbe esserci, spiega poi Le Figaro, questo aggancio per poter difendere questa legge che di fatto appunto contrasta con le regole dell'Unione Europea sul libero commercio. Ma restiamo in Francia, veniamo però a un settimanale americano, Newsweek, che ha scatenato delle reazioni tremende in tutta la Francia, perché come forse è più facile fare per chi mette una certa distanza e quindi ha una capacità di osservazione maggiore su un paese, come nel caso di Newsweek, che vede la Francia con un oceano di mezzo, Newsweek ha spiegato che tra i paesi dell'Unione Europea la Francia è quella che va peggio, perché le persone stanno peggio, perché sono le più pessimiste, e quindi ha scritto, dando anche dei dati, mezzo litro di latte 3 euro, pannolini gratis per tutti, tasse al 75%, cervelli in fuga e addirittura presunta mancanza di una parola francese per definire imprenditore, che invece si dice entrepreneur. È pieno di invenzioni l'articolo di Janine Di Giovanni, giornalista di Newsweek che vive a Parigi, un pezzo sulla caduta della Francia che è riuscito solo a indispettire e nel migliore dei casi a far ridere i francesi. Ecco appunto il migliore dei casi, perché poi in realtà, come hanno scritto tutti i giornali francesi, questo puntare il dito contro contro la Francia come se fosse una specie di inferno dell'Unione Europea non è piaciuto a molti e soprattutto è in molti punti non accurato. Era l'ultima segnalazione, vi auguro un ottimo sabato e ancora un ottimo 2014. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.